La legge è molto articolata, nel senso che varie sono le proposte di modifica all'impianto attuale. In particolare si introduce un permesso di soggiorno temporaneo per la ricerca di occupazione per gli stranieri, che prevede l'incontro fra domanda e offerta nel paese di provenienza dello straniero. Oggi è molto difficile che lo straniero, stando all'estero, riesca a trovare un potenziale datore di lavoro, e si introduce un meccanismo per cui, tramite degli agenti specializzati, sia possibile fare questa previsione, e questa è una novità che non esiste nella nostra legislazione. Invece vengono reintrodotti anche dei meccanismi che esistevano in passato e che avevano funzionato, in particolare il sistema dello sponsor. Uno straniero o un italiano possono sponsorizzare una persona che sta all'estero, la quale verrà in Italia per cercare lavoro. In questo modo si vuole superare la finzione alla base della nostra legislazione, secondo cui dall'estero lo straniero dovrebbe riuscire a trovare un lavoro con un datore di lavoro italiano, e noi riteniamo che questa finzione crei illegalità. Invece, se lo straniero, investendo, avesse questa possibilità di un permesso di soggiorno, nel caso in cui abbia una speranza di lavoro, tutto ciò sarebbe possibile. E poi, per gli stranieri che sono già in Italia, si vuole introdurre un sistema che esiste già in Spagna e in Germania, relativo alla possibilità di regolarizzazione per coloro che non hanno particolari precedenti penali, che hanno legami familiari e un'attività di lavoro, e quindi con questa possibilità si riduce pure il numero degli illegali, anche sulla base della convinzione confermata dai dati che l'illegalità crea insicurezza, e quindi introduciamo un sistema che già esiste in altri paesi d'Europa. E poi ci sono varie altre proposte che mirano a introdurre tutta una serie di diritti che permetterebbero, ad esempio, allo straniero che voglia tornare in patria una maggiore facilità di farlo, potendosi riprendere i contributi almeno parzialmente versati all'Italia, cosa che oggi con la Bossi-Fini non è possibile. C'è anche l'introduzione dell'elettorato passivo nelle elezioni amministrative. Esatto, come dicevo, le proposte sono molte, e si cerca così di introdurre una maggiore eguaglianza tra queste, appunto, l'elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative, a favore degli stranieri che però siano titolari di un permesso di soggiorno come lungo soggiornanti, quindi devono essere soggiornanti in Italia da 5 anni. In quel caso possono eleggere le persone che si candidano per le comunali, ad esempio. Come abbiamo avuto modo di raccontare anche attraverso interviste ai suoi colleghi dell'ASGI, oggi in Italia si riesce a entrare solo con il canale dell'asilo, perché tutti gli altri sono chiusi. Questa legge vuole un po', come dire, allargare anche queste maglie? Sì, l'idea sarebbe quella di non nascondersi dietro il fatto che non c'è bisogno in realtà di nessun ingresso, e su questa, che dicevo, è la finzione alla base della nostra legge, perché esiste un sistema di quote che oggi prevede che il datore di lavoro vada a cercarsi all'estero lo straniero, quando è evidente che la verità è che questo straniero arriva in modo non regolare in Italia e poi si cerca un lavoro. Se poi qui non lo trova ed è irregolare, è spesso costretto a rimanere nell'irregolarità, mentre se avesse questa possibilità di un ingresso regolare a fronte di determinate garanzie, noi riteniamo che l'asilo non verrebbe più in parte, diciamo, abusato come sistema, proprio per la mancanza di altri canali di ingresso, e dall'altro che si avrebbe effettivamente una maggiore razionalità nel sistema di incontro domanda e offerta, perché esistono obiettivamente delle domande di lavoro di datori di lavoro italiano che rimangono prive di risposta perché non esistono dei lavoratori sul punto. La legislazione italiana è stata recentemente integrata dalla legge Minniti-Orlando, che ha ridotto un po' le garanzie per i richiedenti asilo in particolare. Questo tema non è presente nella proposta di legge, perché è arrivato più tardi? È arrivato successivamente. Ah, ok. Si sperava anche che non riuscisse a passare, o che si riuscissero a fare delle modifiche a questo tema. Sulle modifiche al decreto Minniti, ormai trasformato in legge, la posizione dell'ASGE è quella di cercare di individuare le norme attaccabili da un punto di vista costituzionale, e anche interpretarlo in maniera, nei limiti del possibile, più corretto. Esistono però infiniti problemi legati a questa legislazione, e noi confidiamo che si riesca poi in qualche modo a diciamo ridurre il danno. Questa proposta di legge in pochi giorni ha già raccolto 11.000 firme, insomma ne servono 50.000, sì. Quindi insomma la raccolta sembra andare bene. Spesso le leggi iniziative popolari incontrano lo scoglio del Parlamento, poi si sta facendo fatica, certo, a discutere dello Ius Soli, già come, certo, dire, molto temperato. C'è una prospettiva reale che poi si possa arrivare a discutere e approvare una legge di questo tipo? Non si può dire, intanto comunque noi riteniamo fondamentale che si faccia una battaglia per un cambio del discorso sull'immigrazione, e già il fatto di discuterne proprio con una legge di iniziativa popolare, poterne discutere con i cittadini, è un grande risultato. Poi si farà pian piano, si raccoglieranno le firme e poi si discuterà. È vero che ad esempio con la legge dello Ius Soli siamo arrivati all'ultimo miglio e qui troviamo l'ostruzionismo, ma vediamo se poi anche su questo si riuscirà a far capire al Parlamento che, almeno dal nostro punto di vista, sarebbe anche nell'interesse degli italiani avere persone veramente integrate.